Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Erano nati malintesi, mi sembra che la lettera chiarisce. Il giudizio politico è un'altra cosa. Così ha detto il presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, perché adesso è scoppiata la bufera a proposito della Banca Etruria e delle varie vicende delle banche, ma in particolare su Banca Etruria, la bufera sul procuratore di Arezzo che secondo le audizioni che avrebbe fatto nei giorni scorsi aveva omesso forse qualcosa relativo al padre della sottosegretaria alla presidenza Marilena Boschi. Invece oggi lui ha chiarito con una lettera e Casini, il presidente di questa commissione, dice no, in realtà ha chiarito tutto, valuteremo poi se rincontrarlo, e poi dice la questione politica è un'altra. Quindi ci occuperemo di questa vicenda che continua a tenere banco sia da un punto di vista giudiziario che da un punto di vista politico, delle reazioni politiche e anche delle conseguenze politiche. Poi sapete che è nata la nuova creatura a sinistra, Liberi Uguali, con leader il presidente del Senato Pietro Grasso. Qualcuno dice ma forse dovrebbe dimettersi da presidente del Senato, qualcun altro dice no, alla fine siamo a fine legislatura e quindi sta bene dove sta. Sui vostri commenti possono sempre arrivare sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. E poi ci occuperemo di Brexit, perché sembrava che doveva esserci oggi l'incontro della svolta per capire quali saranno i costi e le caratteristiche di questo divorzio della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Invece pare che dovranno fare un altro incontro la prima ministra Theresa May e il presidente della Commissione Europea nei prossimi giorni. Molti altri temi, però prima di tutto vi racconto come sempre in sintesi che giornata è stata. Banca Etruria, scoppia il caso del PM di Arezzo, nuovo filone di indagine, indagato anche il padre della sottosegretaria al governo Maria Elena Boschi. Lei dice il vero obiettivo a cui mirano è il PD e annuncia querela per De Bortoli. Brexit, l'atteso accordo ancora non c'è, la prima ministra britannica May commenta, bisogna ancora negoziare, resta il nodo Irlanda. Crisi nordcoreana, maxi esercitazione di Stati Uniti e Corea del Sud, paura su un volo cinese, abbiamo visto il missile di Kim, dice l'equipaggio che ha avvistato la testata al rientro nell'atmosfera. Il processo accappato, la madre di DJ Fabo in lacrime all'udienza dice gli dissi vai Fabiano perché non voleva morire soffocato. Ryanair, l'antitrust avvia un procedimento contro la compagnia aerea per inadempienze. Clima, secondo i dati del CNR, il 2017 è stato l'anno più secco in Italia dal 1800 ad oggi. Calcio, tutti pazzi per Brignoli, il portiere goleador del Benevento diventa un cult in Serie A. Partiamo quindi dal tema delle banche, perché sotto i riflettori, in particolare in questi giorni, c'è, come vi dicevo, Banca Etruria, con un nuovo fascicolo aperto dalla Procura di Arezzo. Nel registro degli indagati ci sarebbero membri del CDA, del Consiglio di Amministrazione della banca, presieduto da Giuseppe Fornasari, tra cui anche Pierluigi Boschi, padre della sottosegretaria Maria Elena Boschi, che è stato all'epoca vicepresidente della banca, sebbene senza incarichi operativi. Una questione che entra quindi di prepotenza nelle schermaglie elettorali che ovviamente continuano. Falso in prospetto e questo è il reato per cui è indagato Pierluigi Boschi per il crack di Banca Etruria. Ma è bufera sul PM di Arezzo, Roberto Rossi, che in commissione d'inchiesta aveva precisato il padre della sottosegretaria Maria Elena non era tra gli ex del CDA rinviati a giudizio per bancarotta. In realtà, in un altro fascicolo, Boschi è scritto nel registro degli indagati per la vendita delle obbligazioni subordinate alla clientela dell'istituto. Titoli estremamente rischiosi, perché in caso di fallimento di Etruria non era previsto il rimborso. Rossi precisa di non aver negato che il padre di Boschi fosse indagato. Tutto quello che avevo da dire l'ho detto, scrive in una lettera al presidente della commissione Pier Ferdinando Casini, che giudica la risposta chiara ed esauriente. Ma il Movimento 5 Stelle attacca il PD, che esultava dopo l'audizione di Rossi, mentre Luigi Di Maio promette se andremo al governo restituiremo i soldi ai risparmiatori. Intanto interviene Maria Elena Boschi, usano questa vicenda da 2 anni per attaccare me il PD e annuncia un'azione civile di risarcimento danni per Ferruccio De Bortoli. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La discesa in campo di Grasso alla guida di Liberi ed Uguali mette un tassello nel complesso mondo del centrosinistra, non pregiudica alleanze future con il PD, anche se la possibilità resta molto remota. Così Fassino. Noi lavoriamo per un centrosinistra largo e inclusivo. Rispetto alla scelta che ha fatto MDP, è una scelta che naturalmente rispettiamo, tuttavia la consideriamo politicamente poco comprensibile. Renzi chiama a raccolta il popolo del referendum. Quel 41% spiega che ha perso sulle riforme, ma che sarà decisivo per cambiare l'Italia. Quanto alle alleanze, l'ex premier punta a chiudere in tempi brevi un'intesa con Pisapia, trovando nell'approvazione della legge sul fine vita un punto di compromesso. Nel centrodestra intanto si parla di leadership. Berlusconi non ha dubbi nel definire il suo partito la forza trainante della coalizione. La Meloni però rilancia e propone le primarie di collegio. Interessa che la selezione avvenga non su egoismi di partito, ma nel modo più meritocratico possibile. Salvini denuncia minacce su Facebook. Quanto alla coalizione, ribadisce la volontà di unire il centrodestra, ma senza quei cacciatori di poltrone che hanno governato con la sinistra. Il Movimento 5 Stelle, quindi, se saremo la prima forza, chiederemo l'incarico di governo, dice Di Maio. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi torneremo a parlarne, sia da un punto di vista giudiziario che da un punto di vista politico, di queste vicende. Per quanto riguarda invece tutt'altro argomento, i CAF presi d'assalto dai cittadini per avere informazioni sul reddito di inclusione che è stato varato pochi giorni fa, la nuova misura di contrasto alla povertà operativa appunto dal 1 dicembre, destinata in un primo tempo a una platea di 490.000 famiglie per circa 1,8 milioni di persone. L'SOS arriva dalla consulta nazionale dei centri di assistenza fiscale presi appunto d'assalto. Parliamo anche di economia e diritti, perché la presidente della Camera Laura Boldrini, alla presentazione del nuovo libro di Gad Lerner, ha detto: la ripresa economica non può poggiare sulla compressione selvaggia dei diritti delle persone, la modernità digitale non può diventare pretesto per reintrodurre condizioni ottocentesche sui luoghi di lavoro, per creare quello che ho chiamato caporalato digitale. È sul lavoro buono, ha aggiunto Boldrini tra gli applausi, che bisogna poggiare il cambiamento. E poi invece le questioni che riguardano la Gran Bretagna, la Brexit, ci sono ancora problemi che richiedono ulteriori negoziati. Ci rivedremo prima della fine della settimana, così ha detto la prima ministra britannica Theresa May dopo l'incontro oggi con Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea, che avrebbe dovuto segnare questo incontro una svolta per un accordo appunto sul divorzio della Gran Bretagna dall'Unione. Per Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, un accordo al vertice europeo di dicembre è ancora possibile, ma il nodo è l'Irlanda e la decisione se lasciare in vigore in Irlanda del Nord lo status quo dei rapporti con l'Unione Europea o far sì che Belfast segua a ruota la sorte di Londra. Anche questo sarà un tema poi nel corso di questa puntata di Effetto Notte da approfondire. Apple e l'Irlanda hanno raggiunto un accordo di principio per il pagamento delle presunte tasse non versate a Dublino, lo annuncia, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, il ministro delle finanze irlandese, sottolineando che Apple verserà i fondi su un conto di garanzia. I fondi saranno liberati dal conto solo nel caso in cui la Corte europea dichiarerà valida la decisione dell'Unione europea dell'agosto 2016, secondo la quale Apple deve 13 miliardi di dollari a Dublino. E siamo arrivati alla crisi nordcoreana. Sono maxi esercitazioni di Stati Uniti e Corea del Sud dopo l'ultimo lancio missilistico intercontinentale di Kim Jong-un, il dittatore nordcoreano, e ci sono stati momenti di panico su un volo cinese. Dice l'equipaggio: abbiamo visto il missile di Kim, avvistato la testata a rientro nell'atmosfera, scoppiata non troppo lontana dall'aereo. E poi torneremo a occuparci delle strategie messe in atto dagli Stati Uniti per contrastare il dittatore nordcoreano, se di strategie si può parlare. E ora invece l'antitrust contro Ryanair continua a non informare i passeggeri dei loro diritti. Tra i 10.000 e i 5 milioni di euro è la multa che rischia Ryanair dopo che l'antitrust nei suoi confronti ha aperto un procedimento di inottemperanza. La decisione dell'Authority, presa nella riunione del 29 novembre scorso, è motivata dal fatto che la compagnia aerea low cost continua a non informare adeguatamente i passeggeri sui loro diritti. Oltre un mese prima, il 25 ottobre, l'autorità garante della concorrenza aveva aperto un'istruttoria per presunte pratiche in violazione del codice del consumo dopo che Ryanair aveva lasciato a piedi oltre 400.000 passeggeri cancellando 2.000 voli per ragioni riconducibili necessità organizzative e gestionali. Nei confronti della compagnia irlandese era stato emanato un provvedimento che la obbligava ad informare i consumatori italiani dei loro diritti in caso di cancellazione del volo, sia personalmente sia con informazioni chiare sul sito italiano. Obbligo però ignorato dalla compagnia anche dopo che il TAR del Lazio aveva respinto la sua domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento. Intanto, dai dati di novembre si evince che Ryanair continua a crescere. La compagnia ha infatti realizzato un aumento del traffico passeggeri del 6% a 9,3 milioni di clienti, grazie anche alle tariffe che si confermano tra le più basse in Europa. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ci sono novità sull'omicidio della giornalista d'inchiesta a Malta. Il primo ministro assicura massimo impegno nell'arrivare alla verità sul delitto della giornalista. Oggi c'è stato un primo passo in avanti nelle indagini. 49 giorni dopo, la prima svolta nelle indagini è anticipata dal rombo degli elicotteri. 10 arresti a Malta per l'omicidio di Daphne Caruana Galizia. Dopo quasi 2 mesi di proteste di piazza, di richieste di dimissioni e di indagini anche da parte di FBI e Scotland Yard, è lo stesso premier Joseph Muscat ad annunciare la cattura dei sospettati per l'autobomba che lo scorso 16 ottobre dilaniò la blogger che indagava sui segreti dei potenti dell'isola, compresa sua moglie, tra corruzione, paradisi offshore e traffici di droga. Squadre speciali hanno perquisito aree di fabbriche dismesse e navi ormeggiate. I 10 sospettati, tutti maltesi, sarebbero solo esecutori materiali del delitto, non chi ha voluto e ordinato di zittire la cronista più famosa e odiata di Malta, che collaborava al consorzio internazionale di giornalismo investigativo. I nomi principali sono quelli di 2 fratelli, George e Alfred De Giorgio, già arrestati per una rapina in banca ma poi scagionati. Non risulta legami col crimine organizzato, conferma Savio Balzan, editore di Malta Today. Sono dei criminali notati, ma non un legame al circo organizzato. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Di nuovo in Italia adesso con la cronaca. Torna a tremare la terra da Amatrice e dintorni. Per fortuna c'è stata solo tanta paura dopo il terremoto dell'anno scorso. 34 minuti dopo la mezzanotte, una scossa di magnitudo 4.0, inizialmente stimata a 4.2 dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è tornata a colpire appunto la zona di Amatrice in provincia di Rieti, fortunatamente senza fare ulteriori danni. L'epicentro è stato registrato tra le frazioni di Sommati e Retrosi, a 8 km di profondità e a circa 3 di distanza dalla zona rossa del comune reatino, raso al suolo il 24 agosto dello scorso anno. La scossa, avvertita in tutto il centro Italia, nelle Marche, in Abruzzo e anche a nord di Roma, è stata particolarmente sentita. E poi la vicenda di DJ Fabo. È in corso il processo a Marco Cappato per il suicidio assistito. Oggi c'era la madre di Fabiano Antoniani nell'aula al tribunale, ha pianto ricordando le ultime parole che ha detto a DJ Fabo. Ha detto: vai Fabiano, la mamma vuole che tu vada, perché gli era detto prima che schiacciasse con la bocca il pulsante, perché dice lui non voleva morire soffocato, così ha detto la mamma di DJ Fabo, Carmen Carollo. E poi ha aggiunto appunto che lui non voleva morire in quel modo, interrompendo le cure. Anche la fidanzata Valeria è intervenuta al processo. La morte, dice, fu la sua vittoria utile, evidentemente ritiene anche non solo a se stesso, ma a questo dibattito sul biotestamento sempre in corso. Il clima adesso, a proposito di record, il 2017 è stato l'anno più secco in Italia degli ultimi 2 secoli, lo certifica il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che parla di un anno in cui le piogge sono state il 30% in meno della media, in alcuni mesi oltre il 50% in meno. Il 2017 in Italia è stato da record anche per il caldo, classificandosi al 4° posto dall'Ottocento oggi, a pari merito con il 2001, 2007 e 2016. Gli anni più caldi in Italia sono nell'ordine il 2015, il 2014 e il 2003. Messi insieme, i dati della siccità e del caldo descrivono un paese che negli ultimi anni è sempre più colpito dal riscaldamento globale. Passiamo adesso in chiusura allo sport. Si chiude questa sera il programma della 15ª di Serie A di calcio, ma negli occhi di tutti resta ancora la prodezza di Brignoli, il portiere goleador del Benevento, che ieri ha firmato l'incredibile 2-2 dei campani con il Milan. La cosa più divertente è lo sfogo di Mastella, sindaco e primo tifoso del Benevento, che ieri pomeriggio era a Parigi. Finora non mi sono mai perso una partita, aveva detto Clemente. Se vincono pareggiano, diranno che sono io che porto sfiga. In effetti, in questa domenica di streghe e sortilegi, dove il portiere del Benevento riesce a pareggiare al 94esimo dopo 14 sconfitte consecutive, il sospetto che Mastella non sia di grande aiuto alla causa sannita è venuto a molti. Ma allora cosa dovrebbe dire Rino Gattuso al suo debutto sulla panchina del Milan? Peggio di una coltellata, grugnisce Ringhio, che dice d'aver sognato sì la partita tutta la settimana, che però mai avrebbe creduto a un gol del portiere. Che mistero buffo il calcio, pieno di sapientoni che discettano di 4-3-3, di 3-5-2, di moduli, tattiche, linee alte, linee basse. Poi arriva il tuffo di un portiere e manda tutto a carte 48. Non è stata sua l'idea. Dalla panchina mi hanno urlato «Sali, sali!». Ho chiuso gli occhi e mi sono buttato, racconta Brignoli, il castigatore del Milan che nella vita voleva essere solo Pantani e che invece verrà ricordato come una leggenda. C'era una volta un portiere che all'ultimo minuto... Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Direi che a questo punto possiamo quindi chiudere questo riassunto della giornata, così adesso aggiorniamo chi sta viaggiando e poi cominciamo con gli ospiti e gli argomenti da approfondire. Per i vostri messaggi 349-238-6666 oppure sempre pagina Facebook di Effetto Note, che lì per voi giorno e notte, il numero di prima naturalmente sempre per gli SMS e WhatsApp. Dice questo ascoltatore o ascoltatrice, firmatevi anche un nome d'arte: nuovo partito, nuove alleanze, sempre gli stessi si rimpastano, perché il lavoro del politico non lo inseriscono nell'elenco dei lavori deterioranti, così almeno escono fuori dalla scena. Non è malissimo come idea, eh? Poi invece da Firenze questo messaggio, dice: da Firenze la Boschi al super attack sulla poltrona non avrebbe trovato un altro stipendio dopo il 4 dicembre e neanche ora. Beh, insomma, diciamo che è una situazione, vabbè, questo è il parere di un'ascoltatrice o di un ascoltatore. Beh, quella della poltrona è, diciamo, una caratteristica molto italiana e molto diffusa, eh? Ma tra poco. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Un sacco di notizie, già vi ho fatto il riassunto della giornata, ricordatevi di accendere puntualmente tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 21, se volete a fine giornata sapere che cosa è successo di più importante in Italia e all'estero e anche di capire meglio alcuni argomenti, no? Con delle ricostruzioni e le analisi degli ospiti. Tra poco andremo sulla questione, sui nuovi sviluppi che riguardano Banca Etruria. Per i vostri messaggi pagina Facebook di Effetto Notte e poi per SMS e WhatsApp c'è il 349-238-6666. Leggevo prima qualche messaggio sulla pagina Facebook e adesso ancora sulla politica, ma della politica parleremo dopo. Adesso più una questione invece giuridica, giudiziaria, insomma, poi capiremo anche che altre strade prenderà. Per ora un ulteriore filone di indagine. Vi ricordo, se non avete acceso puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti del giorno. Su Banca Etruria scoppia il caso del PM di Arezzo, l'ira della sottosegretaria Boschi che annuncia querela nei confronti di De Bortoli e poi lettera del PM di Arezzo a Casini, il PD chiede una nuova audizione su Banca Etruria. Accordo vicino sulla Brexit, oggi doveva essere il giorno della svolta, però resta ancora il nodo irlandese, ne parleremo. Manovra alla Camera, pressing per licenziamenti più cari e intanto l'Unione Europea chiede all'Italia nuove misure. È sempre per la questione del debito pubblico. Battaglia nello Yemen, ucciso l'ex presidente Saleh, freddato mentre fuggiva da Sana dopo aver scelto Riyadh, quindi la capitale dell'Arabia Saudita. La madre di DJ Fabo, oggi in lacrime in tribunale nel processo a Marco Cappato, che aveva aiutato il figlio a portarlo in Svizzera per il suicidio assistito. Gli dissi, dice la madre, vai Fabiano, non voleva morire soffocato. E poi a Malta sono stati arrestati 10 sospetti per l'omicidio di Daphne Galizia, vi ricordate la giornalista che qualche mese fa è stata uccisa per le sue indagini. Prima svolta su questo omicidio l'annuncio di Muscat, il primo ministro maltese. E poi l'anno più secco degli ultimi due secoli, secondo il CNR, è il 2017, siccità da record, meno 30% di precipitazioni quest'anno. E torniamo sul tema delle banche, di nuovo i riflettori sono su Banca Etruria, polemiche sul procuratore di Arezzo, come sentivate anche dei titoli, il procuratore che sta indagando appunto sulla vicenda di Banca Etruria, viene accusato di omissione sulle indagini a carico del padre della ministra Boschi, che è Pierluigi Boschi. Lui ha replicato poi in una lettera a Casini, che è il presidente di questa commissione parlamentare d'inchiesta sugli scandali che hanno riguardato numerosi istituti di credito negli ultimi anni, dice il procuratore di Arezzo. Lorenzo ha risposto a tutte le domande senza alcuna omissione, ha allegato una copia del verbale. In particolare avrebbe ricordato di aver risposto sulla posizione di Pierluigi Boschi, precisando che non è tra gli ex del Consiglio di amministrazione Etruria rinviati a giudizio, ma di aver comunque annuito quando gli è stato chiesto se lui e altri potrebbero essere indagati. Il presidente della commissione Casini ha dato ragione, ha detto, ha chiarito tutto. Vogliamo sentire che cosa ha detto Pier Ferdinando Casini? Erano nati malintesi, mi sembra che la lettera chiarisce. Il giudizio politico è un'altra cosa. Nel frattempo Maria Elena Boschi, chiamata in causa per il padre non solo, sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, ha detto usano questa vicenda per attaccare in realtà soprattutto il Partito Democratico. Chi ha sbagliato ad Arezzo ha pagato e pagherà, ma noi vogliamo difendere i cittadini che hanno perso i risparmi da Ferrara a Vicenza, nelle Marche. Noi non siamo interessati alle strumentalizzazioni, ha detto, e ha annunciato un'azione civile per Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera, e, insomma, uno dei massimi giornalisti in Italia, che nel suo ultimo libro aveva scritto che, insomma, la Boschi in qualche modo si era interessata di banche. E ne parliamo intanto per l'aspetto giuridico con Sara Monaci del Sole 24 Ore. Ciao Sara. Ciao, buonasera. Quindi ho sintetizzato come sempre, però tu ovviamente spiegaci meglio nel dettaglio, Sara, cos'è questo nuovo filone, la questione che riguarda il PM di Arezzo, quindi sarebbe stata chiarita definitivamente? Allora, diciamo, la premessa è che l'inchiesta su Banca Etruria della Procura di Arezzo è inquinata sin dall'inizio dalla figura di Boschi, per cui è chiaro che oltre all'indagine in quanto tale spesso l'attenzione verte sulla figura, sul ruolo che ha avuto Boschi, ma Boschi in quanto padre di Maria Elena Boschi, quindi si parla del conflitto di interessi. Quindi questo secondo me va chiarito, un aspetto importante, perché qualsiasi cosa poi avvenga in quell'inchiesta, la presenza o l'assenza di Boschi scatena o l'una o l'altra reazione, o contro il PD o a favore del PD, insomma ognuno si intesta un po' o le accuse o gli alleggerimenti. Come ha fatto il PD nei giorni scorsi. Sì, no, lo dico perché poi un conto è la vicenda giudiziaria, un conto è poi la figura di Boschi. Boschi è stato consigliere in determinati anni e vicepresidente soltanto per 6 mesi senza deleghe, quindi la procura sta indagando le responsabilità per bancarotta fraudolenta, che è il tema che è stato toccato appunto nell'audizione, in cui ha specificato che non è stato rinviato a giudizio. È quanto poi spiega oggi, cioè non è stato, scusate, chiesto il rinvio a giudizio perché è in corso l'udienza preliminare. Quindi oggi il procuratore ha scritto al presidente della commissione e a tutta la commissione d'inchiesta, spiegando appunto che durante la prima parte dell'audizione si parlava della bancarotta fraudolenta. Alla domanda esplicita sulla posizione di Boschi ha chiarito che non c'era una richiesta di rinvio a giudizio. La seconda parte, che è stata secretata, quindi anche per noi che ascoltavamo non è stato possibile sentire, ma l'abbiamo ricostruito poi, diciamo, ufficiosamente successivamente, si è parlato di questo che appunto tu definivi il nuovo dossier. Non è poi così nuovo, ne abbiamo scritto anche noi, ci giravamo un po' intorno nel rispetto anche delle indagini preliminari sul cosiddetto falso in prospetto, ovvero su come vennero autorizzate quelle famigerate obbligazioni subordinate che avrebbero creato tanti problemi alle famiglie perché avrebbero poi disperso il loro patrimonio. E riguarda il CDA che potrebbe aver omesso delle informazioni alla Consob, ma sta anche, diciamo, virando sul ruolo della vigilanza, quindi sulla Consob e anche su Banca Italia, ovvero come loro hanno vigilato. Ecco, su questo punto, tornando a Boschi, non è stato chiesto esplicitamente nella fase secretata, questo ci spiega oggi in questa lettera il procuratore, se Boschi fosse o meno coinvolto. Si è parlato, lui spiega, delle indagini e nulla mi è stato chiesto sugli indagati. Per questo lui dice: io non ho commesso un'omissione, non mi è stato semplicemente chiesto, e non mi soffermo su un ruolo che ha una valenza più politica che non giudiziaria, perché ricordo, Boschi, per una procura che cerca di tenere, diciamo, un'equidistanza, è uno dei tanti membri dei due CDA presi in esame dall'inchiesta. Altra cosa chiaramente è il valore politico. È chiaro che per noi Boschi ha un valore maggiore di altri nomi che potrei ripetervi e non direbbero niente a nessuno dei nostri ascoltatori. Quindi evidentemente io credo che la doppia visione sia dovuta al fatto che Boschi è un nome che ha una sua eco politica e altri no. Per un procuratore probabilmente invece lui dovrebbe almeno essere trattato come gli altri. Casini sottolinea che questa lettera ha già creato un chiarimento. Sì, quindi sentivamo. Mm. Esatto, questo non vuol dire che poi le reazioni si placino, perché evidentemente le reazioni in commissione scontano appunto quello che dicevo prima, più una visione politica che non una visione tecnica. Le reazioni che io ho letto e riporteremo anche domani sul quotidiano, sul Sole 24 Ore, credo scontino di più diciamo l'appartenenza politica che non la conoscenza tecnica. Questo nuovo filone di cui stiamo parlando è questo falso in prospetto e è l'autorizzazione che venne data alle emissioni delle obbligazioni subordinate. Si parla in prima istanza del CDA perché furono loro a crearle, si parlerà però diciamo e si guarda in modo più ampio anche perché vennero autorizzate, quindi diciamo è un'indagine ancora in fase preliminare, per questo è stata secretata durante l'audizione, che ancora deve avere un suo sviluppo e che, come si può ben intuire, è molto complessa perché riguarda più soggetti. Certo, e aspettiamo quindi nuovi sviluppi. Grazie intanto a Sara Monaci. Grazie a voi. Ciao Sara, buona serata. Oh, e sin qui abbiamo parlato delle novità che emergono appunto sulla vicenda banche dalla commissione parlamentare d'inchiesta per quanto riguarda i risvolti giudiziari, ma per quanto riguarda invece quelli politici coinvolgo immediatamente la nostra Barbara Fiammeri. Ciao Barbara. Ciao a tutti. Quindi cosa ci sono? Nuovi problemi per Renzi, renziani, non dimenticando tra l'altro che oggi è il 4 dicembre, quindi l'anniversario di un anno dal debacle, dal Waterloo, come vogliamo chiamare, di Renzi, del famoso referendum costituzionale, no? Che fu veramente un tracollo. Che dici? Questa cosa potrebbe mettere ulteriormente in difficoltà? Poi dopo parliamo della nascita della nuova creatura di sinistra, Ma diciamo che a volte le coincidenze, come dire, sono diaboliche. Sì, di per sé significative. Comunque è evidente che questa vicenda di Etruria continua ad essere al centro, no, dei pensieri del segretario del Partito Democratico, perché è evidente che dopo la scorsa settimana, che aveva rilanciato proprio subito dopo l'audizione di Rossi in commissione d'inchiesta dicendo adesso si è capita qual è la verità, ovvero che noi non c'entravamo niente, che il PD non c'entrava niente, che la responsabilità era di chi aveva mal vigilato, in quel senso l'accusa era verso Banca Italia. Adesso oggi invece il clima è completamente cambiato, perché il PD ritorna, o meglio la Boschi, che è una fedelissima del segretario, il leader del PD Matteo Renzi, è tornata al centro, appunto come diceva prima Sara Monaci, al centro in quanto figlia di Papa Boschi, e quindi è evidente che questa, la valenza politica è forte, tant'è che gli stessi renziani, Marcucci in particolare, che è uno dei componenti di questa commissione d'inchiesta e a sua volta molto vicino a Matteo Renzi, anche lui toscano, ha già annunciato che chiederà domani ai colleghi della commissione d'inchiesta, durante l'ufficio di presidenza della stessa commissione, la nuova convocazione in veste di testimoni di Rossi, come dire, per dare la sensazione che il PD non vuole nascondere, ma vuole chiarire. Però è certo che il peso politico di questa vicenda resta, insomma. Renzi si era speso durante tutto il suo viaggio in treno da nord a sud, e in particolare quando era stato in Veneto, quando era stato in Romagna, a Ferrara, si era speso per dire ai risparmiatori: guardate che non è stata colpa nostra, non è colpa del PD, di chi come vi hanno raccontato, ma in realtà è che chi doveva vigilare non ha vigilato, e oggi si ritrova questa nuova patata bollente da dover gestire. Già, e invece fra le altre cose, sempre riguarda Renzi, centrosinistra, a proposito di alleanze, è nata la nuova creatura a sinistra, che è Liberi Uguali, capitanata da Pietro Grasso, presidente del Senato, che sappiamo che dopo il varo del Rosatellum ha deciso di lasciare il gruppo del PD al Senato, e quindi l'abbiamo visto arringare un po' il pubblico nel fine settimana, no? In occasione proprio della sua incoronazione, della nascita di questo nuovo movimento della sinistra che unisce MDP, Sinistra Italiana e Possibile di Civati. Vogliamo sentire due passaggi di Grasso ieri, sentiamo. E tocca a noi realizzare il sogno dei padri e delle madri costituenti, e quindi ripartiamo dai principi fondamentali. C'è in gioco il futuro dell'Italia e questa è la nostra sfida, batterci perché tutti, nessuno escluso, siano liberi e uguali, liberi e uguali, liberi e uguali. Dare le dimissioni dal gruppo del Partito Democratico è stata una scelta politica e insieme personale, frutto di un'esigenza interiore. Mi hanno offerto seggi sicuri, mi hanno chiesto di fermarmi un giro, di fare la riserva della Repubblica. Mi dispiace, questi calcoli non fanno per me. Allora, Fassino ha detto che era il pontiere che si è agitato nelle settimane scorse per cercare di ricucire un po' un'alleanza larga del centrosinistra. Ha detto, insomma, rispettiamo, ma è una scelta poco comprensibile questa divisione. Renzi, da Fazio, a Che Tempo Che Fa, dice: votare per la Cosa Rossa, facciamo un favore a Salvini. Sentiamo Renzi. Mi pare che sì. Io penso che la sinistra sia qualcosa di più grande di una sola persona. C'è lo spazio. Ed è il motivo per il quale, secondo me, se uno sta qui a Como, a Milano, a Brescia e sa che alla fine c'è da votare in un collegio tra il candidato del centro-sinistra e quello del centro-destra, votare per la sinistra radicale, per la Cosa Rossa, significa fare un favore a Salvini e a Berlusconi. E poi lancia una frecciatina, Renzi. Mi pare che sia un po' l'atteggiamento che in passato c'è stato dell'attaccare il leader della sinistra più vicino, no? Ricordiamo in questo, probabilmente più che Grasso, a cui va tutto l'in bocca al lupo del caso, penso che bisognerà capire se questo partito lo comanderà Grasso o D'Alema, lo guiderà Grasso o D'Alema, perché D'Alema l'ha fatto di mestiere quello di attaccare il leader del partito che gli stava più vicino. Barbara, prima di chiederti di commentare tutto ciò, ti leggo vari messaggi che stanno arrivando su questo tema alla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Floriano dice: lui è guidato da Baffino, anche lui sostiene che dietro c'è D'Alema, ma gli italiani non si faranno abbindolare da questi vecchi rancorosi in cerca di poltrone. Poi uguali a chi, dice Francesco, di unità a sinistra non c'è ombra, hanno chiuso perfino il quotidiano omonimo. Queste ulteriori frammentazioni condite da magniloquo non attaccano, sono prove tecniche di sconfitta imminente, dice Cristiano. Qualcosa che deragliasse dal binario morto del PD era inevitabile, e c'è tutto lì dentro, le vecchie volpi del passato, stinto e anime giovani che sentono davvero cause e intenti. Per Elena non penso, ne penso che sono una di sinistra in cerca di casa, ma non saprei dire cosa non mi convince. Grasso è una persona che ritengo affidabile, dunque non saprei. Poi Sigurd dice: la sinistra cambia leader più spesso di quanto cambi le mutande nonostante la dissenteria. Massimo, che quelli di sinistra non hanno ancora capito come tentare di vincere le elezioni. Poi Giovanna dice: penso che a sinistra continuano a dividersi, nessuno crederà più in loro. Per Antonio, la nuova testa di legno, cioè sarebbe Grasso, utilizzata da Massimo D'Alema, e quindi anche per lui c'è dietro D'Alema. Laura dice che no, questo è Maria, Liberi Uguali è di per sé una grande utopia, che dire, in bocca al lupo a Grasso. Per Marilena è una penosa presa in giro, se fossero in buona fede sarebbero ancora più imbarazzanti. Per Simone, uguali a chi, girano con le auto blu, 10 uomini di scorta, eccetera, eccetera. Per Dina, invece, pessimo comportamento di un uomo delle istituzioni, addirittura la seconda carica dello Stato. Insomma, ce ne sono molti altri di messaggi. Barbara, per esempio, secondo te, Grasso, poi commentiamo l'opportunità di questa scelta in sintesi, dovrebbe dimettersi da Presidente del Senato dopo aver fatto questa scelta e diventare leader di questo nuovo movimento? Beh, cioè, siamo a un caso, diciamo, unico, non era mai successo. Neanche fortuna, con Fini? Beh, Fini è il presidente della Camera, è diverso. Il presidente del Senato è la seconda carica dopo il presidente della Repubblica. Io ripeto che se a Mattarella, facendo gli scongiuri, viene un coccolone, Grasso è il presidente. Cioè, Quindi è un po' diverso, cioè il Presidente del Senato per Costituzione ha una valenza diversa da quella della Camera. Comunque diciamo che siamo a fine legislatura e quindi questo dubbio se è addirittura d'arrivo ormai, dici. Quindi non c'è bisogno. Quindi, io credo però, ti devo dire che credo, al di là che sia opportuno o meno dimettersi eccetera, dal Presidente del Senato, credo che sia sincero nella sua scelta, comunque al di là che si apprezzi o non si apprezzi questo nuovo movimento eccetera, ma quello di Grasso, perché molti pensano insomma aveva bisogno di sentirsi leader perché non gli avevano assicurato qualcosa di più sostanzioso. Che dici per chiudere, Barbara? Ma guarda, io non penso, allora, chi va in politica, ripeto sempre, guardare il caso di Mario Monti, cioè chi si avvicina alla politica rimane stregato, anche persone che hanno avuto ruoli importantissimi come Grasso, come fu appunto Monti. È un'attrazione fatale, poi dici quando ci sei dentro. La politica è un'attrazione fatale. Una cosa mi viene da dire, ancora una volta viene scelto un uomo come un po' come una figura, una figura da mettere lì, un frontman, certo, come si dice nelle band. Cioè qui non c'è stato un congresso, non ci sono state primarie, è stato messo lì un po' come a tavolino, secondo te? Sì, e tant'è che già dentro quella formazione, per esempio Montanari ha detto si è persa un'occasione, cioè si sono già allontanati alcuni perché dicono vabbè, ma insomma alla fine abbiamo messo un, è stato sempre il palazzo, come dire, quattro uomini a decidere, Bersani, D'Alema a decidere, mettiamo Grasso, una bella faccia messa lì, però effettivamente non è che c'è stato un processo politico che ha portato all'investitura, non è che lui si è guadagnato i galloni sul campo. Sicuramente, che cosa dobbiamo dire? Diciamoci tutta la verità. Chiudendo, ma se ci andavano Bersani o D'Alema a guidare questa formazione, quanti voti avrebbero preso? Certamente Grasso ha più appeal. Certo, è magistrato, è stato procuratore antimafia, quindi insomma ha un passato di garante almeno della legalità. Barbara Fiammeri, avremo tempo come sempre di parlarne, quindi a presto. Ciao Barbara. Grazie, arrivederci. Sì, abbiamo questa pausa, poi ritorniamo con altri temi. 349-238-6666 per WhatsApp ed SMS oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete, complimenti, al posto giusto, nel momento giusto, anche se volete con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Abbiamo parlato ampiamente del caso Banca Etruria, delle novità, degli aggiornamenti che ci sono, delle polemiche naturalmente che non mancano mai, e poi anche dei risvolti quindi giudiziari ma anche politici, e poi di questa nascita di un nuovo movimento a sinistra con leader Grasso. Moltissimi vostri messaggi ho letto sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche al 349-238-6666 che è il numero per messaggi e WhatsApp. Qualcuno dice basta Bersani e D'Alema devono andare a casa, sono obsoleti. Qualcuno dice Grasso sarà la versione povera e senza successo di ciò che è stato Di Pietro, questo secondo Massimo. Insomma, staremo a vedere. Qualcuno dice che potrebbe avere più appeal, come diceva anche Barbara Fiammeri, raggiungere un 10%. Qualcun altro dice sì, ma che fanno col 10% se non si alleano col PD? Ma adesso cambiamo tema, andiamo invece sulla politica britannica e vi ricordo velocemente però le notizie più importanti per i più ritardatari. Banca Etruria, scoppia il caso del PM di Arezzo, nuovo filone di indagini, indagato anche il padre della sottosegretaria al governo Maria Elena Boschi. Lei dice il vero obiettivo a cui mirano è il PD e annuncia querela per De Bortoli, che twitta e risponde: mi aspettavo l'annunciata querela per diffamazione che non è mai arrivata, dopo quasi 7 mesi apprendo che l'onorevole Boschi mi farà causa civile per danni. Brexit, ne parliamo a momenti, crisi nordcoreana, maxi esercitazione di Stati Uniti e Corea del Sud, anche questo sarà tema di approfondimento, e poi Ryanair, l'antitrust avvia un procedimento contro la compagnia aerea per inadempienze. Clima, secondo i dati del CNR il 2017 è stato l'anno più secco in Italia dal 1800 ad oggi. Quindi il tema della Brexit, del divorzio della Gran Bretagna dall'Unione Europea, che dovrebbe avvenire entro il marzo 2019, a che punto è il negoziato? Abbiamo qui il nostro Sergio Nava, ciao caro Sergio. Ciao Roberta. La prima ministra britannica Theresa May oggi ha incontrato il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker, e doveva essere questo un incontro della svolta in cui ci si aspettava finalmente un accordo più o meno concluso. Invece restano dei nodi, dei problemi ancora. Ma in parte lo è stato, nel senso che fondamentalmente molti ostacoli sono stati finalmente sgomberati, tanto che stamattina numerosi diplomatici avevano sostanzialmente detto ci siamo, sarà veramente l'incontro a svolta. Il problema è che questa Brexit si è trasformata effettivamente in un puzzle dove sistemi un tassello, il mosaico, e ne viene fuori un altro. Cioè, dopo che siamo stati per mesi e mesi a parlare del conto del divorzio, gli inglesi alla fine hanno dovuto sostanzialmente calare le braghe, e da 20 miliardi sono passati a 45-50 miliardi che dovranno pagare, per andarsene, per divorziare da noi, dall'Unione Europea. Non è ufficiale, non è ancora una cosa ufficiale, ma ormai lo si dà abbastanza per assodato. Scoppia il caso nordirlandese. E cioè, sentiamo tra l'altro, magari abbiamo il contributo di Jean-Claude Juncker quando dice che non c'è ancora al momento un accordo. Così lo facciamo. It was not possible to reach a complete agreement today. Lo dice chiaramente, subito, sì. Non è stato possibile raggiungere un accordo completo, proprio perché manca quel tassello. Il tassello si chiama Irlanda del Nord. Allora, qui cosa è successo? Che c'è un problema di fondo. Le due Irlande, quella l'Ulster sotto il controllo della Gran Bretagna e la Repubblica Irlandese, chiaramente con l'Unione Europea e con diciamo tutti quanti gli accordi relativi anche al mercato interno, non hanno più una frontiera fisica, lo sa bene chi ha provato anche a viaggiare in questi anni. È chiaro che la Brexit rimetterebbe una frontiera fisica in un territorio già provato da anni e anni di guerriglie e di troubles, di problemi, insomma. L'intenzione britannica e l'intenzione irlandese è quella di tenere un confine sostanzialmente aperto, anche se questo porrebbe creare dei problemi, perché l'Ulster non sarebbe più nell'Unione Europea. Cioè l'Irlanda del Nord. L'Irlanda del Nord. Però l'Irlanda del Nord non vuole uscire dall'Europa? Gli irlandesi del Nord votarono per restare nell'Unione Europea, chiaramente il loro voto poi non fu maggioritario, perché nel totale gli britannici decisero di andarsene, però sostanzialmente appunto c'è un sentimento di non voler rimettere un muro laddove era stato finalmente tolto. Il problema è che il partito unionista, il DUP, che tra l'altro i cui voti sono necessari al governo May per poter restare in carica a Londra, e qui il clamoroso errore di Theresa May di convocare elezioni a giugno non l'avesse mai fatto, ha detto no, perché chiaramente, tenere aperta la frontiera con la Repubblica Irlandese significherebbe a quel punto crearne una all'interno della Gran Bretagna, perché se l'Irlanda del Nord resta nel mercato unico, resta con una frontiera aperta, si metterebbe una frontiera col suo proprio paese. Un complicato rompicapo diplomatico che, insomma, per farla breve, ci porta adesso ad avere 10 giorni di tempo per poter sistemare la questione Brexit, o meglio il divorzio, per poi programmare da qui a ottobre dell'anno prossimo quale sarà la nuova partnership tra Unione Europea e Gran Bretagna. Ogni ritardo nel sistemare la questione del divorzio mette in bilico e mette in pericolo la futura partnership, e non toglie del tutto dal tavolo l'ipotesi di una hard Brexit con un'uscita da Gran Bretagna senza accordo. Sarebbe lo scenario peggiore per tutti. Comunque, insomma, prima del fine di questa settimana Theresa May ha detto faremo un altro incontro e vedremo, avremo modo di riaggiornarci. Ce la si potrebbe fare. È chiaro che alla fine è un unico partito che sta bloccando tutto, in un modo o nell'altro si cercherà di convincerlo, ma attenzione, stiamo parlando degli unionisti dell'Ulster, che non sono per niente, diciamo, animali politici semplici. Grazie Sergio Nava. Grazie a voi. Ciao Sergio, viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Riprendiamo allora col filo delle notizie, Roberta Giordano sempre con voi. Un ascoltatore o ascoltatrice, Max, dice non ha letto neanche un messaggio a favore della nuova formazione di Grasso, è difficile credere che non ne sia arrivato neanche uno. No, in realtà qualcuno l'ho letto a favore, anche se molti sono critici sul fatto che il centrosinistra, dividendosi e parcellizzandosi, possa in qualche modo poi portare alla vittoria di quelli che ritengono appunto che sono i loro avversari, i loro antagonisti. E poi ho detto che sinceramente penso che Grasso sia stato mosso da un impulso effettivamente appassionato e sincero, nonostante molti dicano ha cercato un po' il ruolo da leader. Poi, insomma, vedremo se effettivamente, come si diceva prima, avrà più appeal di un Bersani o di un D'Alema che, secondo anche la nostra commentatrice politica, l'hanno messo lì un po' come frontman, secondo lei messo decisa un po' a tavolino questa cosa. Adesso vi ricordo molto velocemente i fatti più importanti, quindi abbiamo parlato della politica e di questa nuova formazione della sinistra, quindi Liberi Uguali con leader Grasso che unisce insieme appunto MDP, Sinistra Italiana e possibile di Civati, poi della Banca Etruria con il caso del PM di Arezzo che è scoppiato e sembra rientrato, il nuovo filone di indagine indagato anche il padre della sottosegretaria al governo Marilena Boschi, lei dice il vero obiettivo cui mirano il PD, annuncia querela per De Bortoli. Che gli risponde con un tweet. Poi della Brexit abbiamo appena parlato, l'atteso accordo ancora non c'è, ma insomma c'è speranza che si chiuda entro dicembre. Crisi nordcoreana, ne parliamo proprio tra pochi istanti. E poi Ryanair, l'antitrust avvia un procedimento contro la compagnia aerea per inadempienze. Clima, secondo i dati del CNR, il 2017 è stato l'anno più secco in Italia dal 1800 ad oggi. Per il calcio, tutti pazzi per Brignoli, il portiere goleador del Benevento, che diventa un cult in Serie A. Ci colleghiamo adesso con gli Stati Uniti, dove c'è sempre il nostro Marco Valsania. Ciao Marco. Ciao a voi. E parliamo della crisi nordcoreana, esercitazioni di Stati Uniti con la Corea del Sud sono in corso. Trump ha mandato a Seul 6 caccia F-22 invisibili ai radar, quindi gli Stati Uniti continuano a rafforzare lo schieramento militare che stringe un po' d'assedio la Corea del Nord dopo l'ennesima provocazione, questo lancio di un missile intercontinentale che avrebbe potuto colpire anche gli Stati Uniti, che è caduto al largo del Giappone, che è stato visto anche dall'equipaggio di un volo cinese che si è molto spaventato dicendo che proprio l'ha visto rientrare in atmosfera questo razzo e poi esplodere non molto distante dall'aereo. Allora, dicevi nei giorni scorsi, Marco, che ancora manca nel consesso internazionale, ma soprattutto per quanto riguarda il presidente degli Stati Uniti d'America, Trump, una vera exit strategy, cioè come uscire praticamente da questa situazione, possibilmente con meno danni possibili, magari per vie diplomatiche. No, ma secondo te il magari consenso un po' logorato interno, i vari guai per Trump come il Russiagate che ancora sta procedendo questa inchiesta, potrebbero spingerlo prima o poi come arma di distrazione di massa a spingere un po' di più sul bottone della crisi nordcoreana, secondo te, da quello che si sente negli Stati Uniti? Ma è auspicabile sicuramente di no, che le due cose rimangano in questo caso così compartimentalizzate e separate, visti i rischi, le incognite di una escalation fuori controllo della crisi coreana. Di sicuro però, ecco, l'amministrazione Trump sta alzando, diciamo, i toni sul fronte della crisi nordcoreana. La strada maestra rimane quella delle pressioni diplomatiche, politiche, economiche e anche, diciamo, militari a livello di immagine, come sono queste ultime esercitazioni, però appunto non possiamo sottovalutare e dimenticare che comunque quando di fronte a continue escalation i rischi anche di che qualche cosa vada storto, i rischi comunque che si arrivi a delle crisi aperte, a un conflitto, non possono essere esclusi. Queste manovre, come dicevi, sono significative non tanto per le dimensioni, sono manovre annuali tra Corea del Sud, Forze Armate della Corea del Sud e americane che appunto avvengono tradizionalmente, ma perché questa volta c'è stato questo elemento aggiuntivo dei cacciabombardieri invisibili che comunque l'amministrazione Trump ha dispiegato per la prima volta e che quindi danno anche così danno così anche simbolicamente un messaggio di nuova gravità alla situazione, tant'è vero che la Corea del Nord ha subito reagito dicendo che si tratta appunto di un aumento di rischio di conflitto nucleare. E Marco, ecco, prego. No, dicevo, per chiudere, a proposito di difesa, Trump ha detto che è arrivato il momento di ridisegnare le alleanze a partire dalla NATO, no? Ha dato il primo avvio libero alla revisione di queste strategie di sicurezza nazionale che sarà annunciata nei prossimi giorni. Va bene, aspettiamo i prossimi giorni, però qualcosa si muove anche in questo senso. Sì, ecco, diciamo, qualcosa sicuramente sì, in quella, diciamo, direzione. Ora la strategia di sicurezza nazionale che dovrebbe essere annunciata, non è ancora chiaro quando, verrà discussa questa settimana, potrebbe anche essere poi annunciata, diciamo, in un po' più in là, ma comunque le linee guida sono state anticipate dal consigliere per la sicurezza nazionale Richard McMaster, che fondamentalmente ha delineato una politica che ha definito realistica e non idealistica, ispirata a America First, cioè che vuole fare i conti appunto con le minacce quali Corea del Nord e Iran, con un primato così per la competitività dell'economia americana e quindi, diciamo, al benessere degli Stati Uniti, con un focus sulla sicurezza diciamo domestica della patria, e appunto con, diciamo, invece le alleanze un po' in sordina, cioè un invito agli alleati a fare di più, come già aveva chiesto tempo fa Trump. Grazie Marco Valsani, intanto da New York. Ciao Marco, buon lavoro. Grazie a voi. Ciao. A voi. Noi ci risentiamo brevemente alle 22:00.